dammi un bimbo. Odio i merdosi figli di papà che mentono alla loro realtà, cercando una metà nelle jam, panno in frista. Siamo gente che conquista le donne con la quinta, vomitano come cinta. Noi facciamo testi con teste tritolo, ma gente che mente alla mente al mentolo. Sono soli coglioni, amici felici e cazzoni, nel giornale in sorrisi, ma datemi le canzoni che frequento, le frequenze, le frequenzo come Enzo. Se ti domino non ti sento come il silenzio. Sperimento l'ultimo esperimento, spero di spaccare senza speculamento. Aspetta un attimo, tu usa il tuo calibro, schiaccio lo stress con me, biruli animo, sciolgo come acido. Tu mi dai di acido, se non vali in questa merda allora sei un invalido. Sono qui se tu cerchi un motivo, sei vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo. Sono qui se tu cerchi un motivo, sei vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo. Se scrivo poco sarà un mio problema, se tu vuoi fuoco fai lo smorza candela. Tu smorzi la scena in maschere di cera, ma resta di statue immobili come a Creta. Io uso la zeta perché sono l'ultimo, ho dubbi non ne dubito, scrivo doppio ma non duplico. Che vuoi farci? Sopravvivo schiaffi e calci, quelli che danno fastidio ai tuoi baciabracci. Faccio il duro quando il gioco si fa duro coi duri, chiudo spini e non duri. Se fumo rullo più di tamburi, altro che blitz con il crick, tiro giù la tua click che va click o clack. Ma son più super della scack, scrivo con la pic ma non sono chic. Cerco il cc ma non è arb, è erv magic. Amo il mic p più della tua missi, poi mi strizza l'occhio qui, sarà che avrà qualche tic tic p. Sono qui se tu cerchi un motivo, se vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo. Sono qui se tu cerchi un motivo, se vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo. Sopravvivo e vivo se scrivo solo arco, in un mondo di sopravvissuti sono un survivor. Come English, I see on the table, ma nelle battle vai nell'angolo più di carte. Gol, sento big up, detto da chi non lo sa, e se lo sai grazie alle strofe di questo qua. Qua il ballo del papà, nel gioco fa il pedone, rompo teste fra. Questo è il ballo del mattone, lo faccio da fattone, non spaccio il puzzone. Sempre testa a testa, sì, ho il testosterone, tu testa un mio testo, io hai l'iniezione. Ma resto sulla strada, abito sullo stradone, ho merda in circolazione, tu resta in circolazione. Ma lì sotto la pioggia sono l'acquazzone, non sopravvivi, è una penisola di stilosi, perché te la giri sull'isola dei famosi. Sono qui se tu cerchi un motivo, se vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo. Sono qui se tu cerchi un motivo, se vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo. Sono qui se tu cerchi un motivo, se vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo. Sono qui se tu cerchi un motivo, se vivo e sopravvivo e vivo su di un filo. Dammi un filo, frequento come un rito, con tutto il mio stile, con questo sopravvivo.